Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21.30, da adesso ore 20, ma andiamo prima con la sigla di apertura per questo programma. Bene, abbiamo ascoltato la sigla d'apertura per questo programma, che il programma è Zardins Magnetics, va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica fino alle ore 21.30, anche oggi giovedì 11 settembre 2025. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Ora passiamo all'ascolto di questa band spagnola, loro sono gli Ayucaba, è una band che esiste da circa 2 anni e 2 mesi fa all'incirca è uscito un loro album, loro sono dell'area di Barcellona, comunque i componenti della band, tutti che gravitano in questa zona di Barcellona, di questo gruppo punk hardcore che ovviamente non mi ricordo il nome di questo gruppo, vabbè, comunque alcune decine di anni che gravitano in questo movimento punk hardcore di Barcellona, e loro, come già detto, sono gli Ayukaba, e questo è il loro album che si chiama Operation Massacre. Eccoci qua in voce anche per questo giovedì 11 settembre 2025. Un saluto a tutte e tutti voi che ci ascoltate in diretta o in streaming, oppure ci state ascoltando ed è venerdì, oppure ci state ascoltando un giorno qualunque. Ma sì, sono modi di dire ormai che un po' mainstream anche questi, tutto per dire che abbiamo varie possibilità di essere ascoltati. Stasera parleremo un po' di così di del progetto di digitalizzazione del mondo da parte, insomma, delle spinte più così, quelle che sono le tendenze del capitalismo, della società dove viviamo, eccetera, cose di cui abbiamo già parlato, semplicemente in un'altra di nuovo in un altro modo di dire. Poi ricorderemo, ci sarà uno spazio forse anche per l'attualità e naturalmente ricorderemo gli appuntamenti della settimana. Per adesso così, e mettiamo ancora un brano. Qual è la via che conduce all'essere mezzo del mezzo? In qual modo possiamo accedere a ciò che il mezzo è in verità? Il procedimento che si rende a tal fine necessario deve guardarsi con cura dal cadere in quei forzamenti che caratterizzano le interpretazioni abituali. Ci potremo garantire da questo pericolo se incominceremo con la semplice descrizione di un mezzo qualsiasi, senza teorie filosofiche. Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai comune, un paio di scarpe da contadino. Per descriverle non occorre affatto averne un paio sotto gli occhi, tutti sanno cosa sono. Ma poiché si tratta di una descrizione immediata, può essere utile facilitare la visione sensibile. A tal fine può bastare una rappresentazione figurativa. Scegliamo ad esempio un quadro di Van Gogh che ha ripetutamente dipinto questo mezzo. Che c'è in esso da vedere? Ognuno sa come sono fatte le scarpe. Se non si tratta di calzature di legno o di corda, hanno la suola di cuoio e la tomaia unita alla suola con cuciture e chiodi. Questo mezzo serve da calzatura. Col variare dell'uso, lavoro nei campi o danza, variano la forma e la materia. Queste considerazioni, abbastanza banali, non fanno che chiarire ciò che già sappiamo. L'essere mezzo del mezzo consiste nella sua usabilità. Ma che ne è di quest'ultima? Con essa afferriamo anche l'essere mezzo del mezzo? A tal fine, non dovremmo considerare il mezzo usato nell'atto del suo impiego? La contadina calza le scarpe nel campo. Solo qui esse sono ciò che sono, ed esse sono tanto più ciò che sono, quanto meno la contadina, lavorando, pensa alle scarpe, o le vede o le sente. Essa è in piedi e cammina in esse. Ecco come le scarpe servono realmente. È nel corso di questo uso concreto del mezzo che è effettivamente possibile incontrarne il carattere di mezzo. Finché noi ci limitiamo a rappresentarci un paio di scarpe in generale o osserviamo in un quadro le scarpe vuotamente presenti nel loro non impiego, non saremo mai in grado di cogliere ciò che in verità è l'essere mezzo del mezzo. Nel quadro di Van Gogh non potremmo mai stabilire dove si trovino quelle scarpe. Intorno a quel paio di scarpe da contadino non c'è nulla di cui potrebbero far parte. C'è solo uno spazio indeterminato, grumi di terra, dei solchi o dei viottoli non vi sono appiccati, denunciandone almeno l'impiego. Un paio di scarpe da contadino e null'altro. Ma tuttavia, nell'orificio oscuro dall'interno logoro si palesa la fatica del cammino percorso lavorando. Nel massiccio pesantore della calzatura è concentrata la durezza del lento procedere lungo i distesi e uniformi solchi del campo battuti dal vento ostile. Il cuoio è impregnato dell'umidore, del turgore del terreno. Sotto le suole trascorre la solitudine del sentiero campestre nella sera che cala. Per le scarpe passa il silenzioso richiamo della terra, il suo tacito dono di messe mature e il suo oscuro rifiuto nell'abbandono invernale. Dalle scarpe promana il silenzioso timore per la sicurezza del pane, la tacita gioia della sopravvivenza al bisogno, il tremore dell'annuncio della nascita, l'angoscia della prossimità della morte. Questo mezzo appartiene alla terra e il mondo della contadina lo custodisce. Da questo appartenere custodito, il mezzo si immedesima nel suo riposare in se stesso. Ma forse tutto ciò non lo vediamo che noi nel quadro. La contadina invece porta semplicemente le sue scarpe. Se almeno questo semplice portare fosse davvero semplice, quando alla sera la contadina, stanca ma lieta, si toglie le scarpe, o quando al primo mattino le ricalza, oppure quando in un giorno di festa le smette, essa sa tutto questo senza bisogno di osservazioni o di considerazioni. L'essere mezzo del mezzo consiste certamente nella sua usabilità, ma questa, a sua volta, riposa nella pienezza dell'essere essenziale del mezzo. Questo essere è da noi indicato col termine fidatezza. In virtù sua, la contadina confida attraverso il mezzo nel tacito richiamo della terra. In virtù della fidatezza del mezzo, essa è certa del suo mondo. Mondo e terra ci sono per lei e per tutti coloro che sono con lei nel medesimo modo, solo così, nel mezzo. Diciamo solo, e in realtà erriamo, perché la fidatezza del mezzo dà al mondo immediato la sua stabilità e garantisce alla terra la libertà del suo afflusso costante. Allora, abbiamo fatto una digressione per cominciare. Si parla di questi quadri che faceva Van Gogh, dove erano ritratti i famosi zoccoli, insomma le scarpe da contadino, ma è solo un pretesto, perché si sta parlando appunto di cosa vuol dire cercare di dire a parole cosa vuol dire provare a essere nei panni di un altro, potremmo dire, cioè di vederci mentre facciamo qualcosa, in sostanza. Questo qua è un esperimento che viene fatto in queste pagine di una conferenza che si intitolava L'origine dell'opera d'arte, del 1935, e il conferenziere era Martin Heidegger. Adesso cerchiamo di avvicinarci alla nostra frase che lanciava un po' i discorsi che volevamo fare stasera, e anche lì spieghiamo. La frase è questa: digitale informatica spinte hanno reso la nostra esperienza povera, blindate le nostre esperienze povere, blindate nell'isolamento, ma abbiamo tutti il cuore spezzato. Allora, spiegazione: questa frase è tratta da una intervista, no, da una discussione, da una sbobinatura di un incontro più che altro, abbastanza informale, che si è svolto nel Canton Ticino nel 2017 tra l'intellettuale, chiamiamolo libertario primitivista, John Zerzan, statunitense, e il rivoluzionario, chiamiamolo così, insomma, il prigioniero di lunga data, insomma, si è fatto 30 anni di galera fra Italia e Svizzera, Marco Kamenisch. E Marco Kamenisch, ho detto rivoluzionario svizzero, sì, l'ho detto, dei Grigioni, e quindi 12 giugno 2017 viene fatto questo incontro e viene sbobinato a cura di Strix, lo si trova, appunto, è facilmente reperibile, e a un certo punto c'è questa frase: abbiamo tutti il cuore spezzato. E adesso cambiamo programma. Prima vi dico perché siamo arrivati a Kamenisch, e il motivo è ancora un articolo da questo numero 77 di Nunatak. Però questa volta non parliamo di rivolte contadine, ma di un'articolata analisi sui data center, il vivente come ingranaggio della macchina militare digitale. Ed è un articolo che è stato ricavato da una puntata appunto di questo programma che si chiama Happy Hour, programma a periodico che va in onda su Radio Blackout di Torino, e in particolare il programma si chiama Happy Hour, pillole sintetiche dal mondo guerra. Il programma era così, si parlava dell'impatto che hanno i dispositivi, cioè no, i complessi, diciamo, hardware che mettono in piedi l'intelligenza artificiale. Il lato sommerso dell'iceberg, no? Si intitolava di questo febbraio, del febbraio di quest'anno, e è stata rielaborata questa puntata e appunto e c'è questo articolo che però andremo a vedere alla fine del prossimo brano. Eccoci di nuovo, dicevo di questo articolo sui data center che trovate su Nunatak numero 77, e la questione è questa, insomma, naturalmente i data center sono un esito necessario di questi dispositivi che si chiamano appunto, io li chiamo, cioè so soltanto propriamente o tanto accuratamente, ma comunque li definisco dispositivi. Li ho chiamati dispositivi, ma non so bene se è vero, e che sono che è l'intelligenza artificiale, no? Che in soldoni si tratta di interfacce, no? Interfacce vocali o testuali, ovvero viene lanciato questo prompt, questo suggerimento, in italiano viene lanciato questo suggerimento, e il macchinario reperisce nella rete internet, reperisce delle risposte e fornisce una risposta, no? Normalmente. Questo in soldoni, ripeto, poi ci sono le versioni pro, che sono le versioni che di solito, ecco, nei mass media, nei dibattiti, nelle opinioni varie vengono ignorate. Si parte chiaramente dalla versione, quella a disposizione di tutti, che è una versione standard, che non ha la possibilità di memorizzare, tra l'altro, quello che mi risulta. Faccio uno spoiler, in realtà non ho mai provato, cioè consapevolmente non ho mai preso uno di questi aggeggi e messo alla prova, ma mi sono informato e appunto esistono le versioni standard, la chiamo così, e la versione pro invece, che è senza filtri e con la possibilità di memorizzare, no, il passato delle interrogazioni. Ecco, quindi un'interfaccia, avevo detto, vocale, dai, perché c'è comunque come si dice, quella, anche quella dei ormai già da un po' di tempo quegli assistenti domestici, no? Che si vedono ormai anche nei mass media, nei film. E, in realtà le interfacce, appunto, di massa, le interfacce tra computer e umano si era già fatto un passo in avanti con l'interfaccia grafica, se avete presente, cioè l'esistenza prima del mouse, adesso c'è il touchscreen, ma insomma prima c'era il mouse, prima ancora c'erano queste grandi cose enormemente innovative che erano le finestre. Non c'erano più i comandi, no? Bisognava inserire le stringhe, questo siamo più di 30 anni fa, ma non facciamo la puntata di informatica, io è solo per avere un quadro, no? Un quadro per averlo presente in testa, non far come se le cose che ci sono adesso sono eterne, perché ci sono da 2-3 anni, allora diventano eterne, no? E inoltre ne escono continue versioni, avanzamenti, cioè sempre più avanzate, e diventano obsolete in un anno anche questi assistenti, diciamo, vocali, no? Quindi è bene avere anche in testa un po' di genealogia, no? di queste tecniche o tecnologie. Anche qua è una disputa, perché comunque, appunto, qua andiamo direttamente all'articolo. Finché c'è l'utensile, c'è un mezzo, e c'è un mezzo che mira ad un fine, no? Che siano gli zoccoli di prima, o che sia il martello, o che sia, insomma, non sto improvvisando degli esempi, questi sono dei mezzi che influiscono sul rimangono dei mezzi, ecco. Quindi siamo su una su questo tipo di processo. Quando si arriva a invece macchine che calcolano, cioè come qui nel caso di cui stiamo parlando, sono, si dice, autoteliche, cioè nel proprio mero dispiegamento hanno anche il fine della propria realizzazione. Cosa vuol dire? Che mentre lavorano deviano il fine che avevano e diventano fine a se stesse. La storia passata della tecnica va distinta dalla sua trasformazione industriale, dice Jacques Ellul, diceva. C'è un cambiamento non solo di proporzioni, ma di qualità, e la qualità della tecnica attuale è quella di ergersi al regno dei mezzi, sistema che si autoaccresce e si presenta con i caratteri dell'unitarietà, universalismo e autonomia. Chiaramente questo, dopo l'abbiamo già detto con altri autori, anche implica il fatto che ai lavoratori non è richiesto di sapere come è fatta la cosa a cui stanno collaborando, la costruzione, e tantomeno come funziona. Non solo l'utente, no? Non solo l'utente è proprio radicalmente, diciamo, isolato, cioè per sempre diverge, ecco, da questa possibilità di sapere come funziona. Non è neanche a livello della lavatrice. La lavatrice uno poteva ancora immaginarsi, no? Ma quando siamo con lo smartphone, che il 99% delle persone utilizzano 20 ore, giù di lì 18 ore al giorno, ma lì, pur utilizzandolo, non ha una minima idea di come funziona lo smartphone. A parte lo smartphone, che è l'esempio estremo, comunque anche tutta una serie di altri aggeggi tecnologici hanno escluso l'utente, ma hanno escluso anche il lavoratore da questa possibilità. Io direi che ci fermiamo ancora un attimo perché sono già le 20:40. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band di Milano, anzi Milano Punk Hardcore, come hanno scritto nel loro disco. Loro sono i Golpe e questo è il loro album La colpa è solo tua. Sì, c'è stato un qui pro quo, ci siamo. Sì, stavamo parlando di questa questione della tecnica e tecnologia, l'abbiamo buttata abbastanza così in maniera grezza. Prima di ritornare a questa, cioè concludere questa questione, volevo anche dare un'idea, cioè mettervi anche voi, comunicarvi insomma quello che a me mi ha fatto così un po' di impressione rispetto ai discorsi di ChatGPT e di altre tecnologie di cui si parlava prima. Allora, loro praticamente hanno questa necessità dei data center perché hanno questo campo che si chiama data set, dove loro vanno a cercare, costruiscono architettura e cercano collegamenti inaspettati, no? E quindi c'è anche delle zone di confine, diciamo, col transumanismo, diciamo, zone di, un po' in, così, apolitiche, nel senso che non hanno, sì, che sono così un po' destroidi, che ipotizzano anche, vedi comunque, vai un po' a scavare e trovi questi personaggi che tengono le loro, appunto, conferenze e lezioni sul canale della Fondazione Bruno Keller, comunque dopo di Trento. Dopodiché, sì, che ipotizzano usi intelligenti dell'intelligenza artificiale, appunto intelligenti in senso creativo, che vanno a tirar fuori gli esempi di scrittura automatica dei surrealisti e avanti, insomma, come per uscire dal paradigma così di che è solo imitativa, no, l'intelligenza, ma tutto ciò senza tenere conto di, a parte questioni etiche, ma di appunto genealogia reale, cioè posso dire contesti sì, socioculturali da cui viene questo tipo di tendenze, no, della società. Comunque, a livelli DARPA, cioè a livelli Agenzia per la Difesa, progetti speciali dell'Agenzia per la Difesa degli Stati Uniti, loro stanno appunto lavorando, tra le altre cose, anche su questo aspetto, che per loro in questo momento dicono che è proprio impegnativo, di far lavorare queste macchine, farle raggiungere un tipo di risposta, come posso dire, sì, intuitivo, ecco. Ma è che quindi loro ipotizzano che è possibile, è solo una questione di, come posso dire, di quantità, no? Di quantità, di un discorso di, sì, di numeri, non è un discorso di possibilità o di qualità. Allora, il nuovo suggerimento, cioè il suggerimento che loro hanno in testa, per essendo di dipartimento agenzia per i progetti avanzati della difesa, diciamo, degli Stati Uniti, loro hanno in testa questa roba, che il soldato va supportato, no, da una catena di, appunto, medica, non necessariamente, cioè può essere anche umanoide, non è necessariamente umana questa catena di soccorso, ecco, perché comunque le ambienti del soldato dei prossimi decenni sarà sempre più ostile, e per fare in modo che il soldato è una risorsa inestimabile per loro, è la loro macchina più avanzata, no, che hanno, e ipotizzano questa cosa qua, oltre al discorso del sangue artificiale, cioè di realizzare proprio, sì, quel tessuto che è il sangue in maniera sintetica, per poterlo, appunto, averlo sempre disponibile e trasportabile e non soggetto a scadenza. C'è anche il discorso, appunto, di realizzare questo tipo di supporto di assistente umanoide, no, medico, che soccorre il ferito. Quindi, quando adesso a un livello più generale, questa intelligenza deve saper rispondere alla domanda, al prompt, cioè al suggerimento. Il suggerimento non sarà più che cos'è, non so adesso che cos'è la Fontana di Trevi, sarà com'è la realtà in questo momento, cioè come stanno andando le cose. Lui deve essere in grado di vedere quello che succede e dare una risposta, e la risposta deve essere corretta, no? Questo qui è quello a cui loro stanno lavorando oltre al discorso del sangue sintetico, oltre altre cose, esempio altre cose che sono impressionanti anche queste, di andare sui satelliti e comunque andare nello spazio e senza appunto portare sullo spazio i materiali di costruzione, no? ma sviluppandoli in laboratorio biologicamente. Questo qua tra l'altro era il responsabile del dipartimento di dipartimento adesso biologico, insomma, della DARPA. Cioè vedere, ecco, no, sì, quindi naturalmente fare sviluppare in vitro e sinteticamente, questa volta non la carne, ma ad esempio, non so, polimeri, ad esempio, e quindi fare le strutture concretamente, insomma, per questa via. Torniamo a noi al data center come oracolo. Allora, dice la Happy Hour qui, naturalmente queste tecnologie devono, dicevo prima, essere rifornite con questi dataset, no? Con queste vastità di campo di ricerca dove trovare le risposte agli stimoli. E il punto, appunto, torniamo al discorso tecnica-tecnologia, no? Quindi mezzo fine o mezzo regno dei mezzi, dominio dei mezzi senza fine, appunto, con questo gioco di parole. Il discorso qui è che la macchina in tempo reale le attività a cui noi, gli stimoli che gli diamo da fuori, vengono elaborate, registrate in tempo reale. Cosa vuol dire? Vado a leggervi così non mi perdo. Non mera ripetizione, ma retroazione cibernetica in cui i risultati di processi precedenti sono reimmessi nella riproduzione del sistema, come ad esempio quando i dati che si producono in quanto utenti vengono istantaneamente utilizzati per modulare i feeds sui social media. È stato sviluppato il concetto di governamentalità algoritmica per nominare questo processo di automazione della stessa decisione. Si potrebbe quindi dire che il data center più che all'archivio rimanda alla figura dell'oracolo. Quindi in questo senso non è un luogo dove appunto noi andiamo a cercare, o noi o assistiti, insomma, in maniera assistita andiamo a cercare il repertorio delle nostre esperienze, ecco, per andare, cominciare a avvicinarci al punto un po' dopo tutte queste digressioni. Il discorso è che lui, essendo un oracolo, l'oracolo dà la sua risposta inaspettata, imprevedibile, anche virgolette magica, ma che magica per modo di dire, perché basata su paradigmi. Sì, c'è poco da rimanere affascinati, no, da questi discorsi, perché sono comunque rispondono a leggi statistiche, a leggi, insomma, a criteri statistici, e quindi la memoria viva si confonde col passato, che ha già traccia del possibile futuro. Il futuro non è più possibile perché si basa sull'esperienza passata, no? Su questi archivi, questi che erano archivi, diventano anche però archivi in futuro, e quindi in questo senso un oracolo, col conseguente impoverimento dell'esperienza e cortocircuito della possibilità critica. In realtà un fenomeno come l'avvento di ChatGPT non dovrebbe interrogarci perché l'intelligenza artificiale possa effettivamente sostituirsi a quella umana, ma per il fatto che è il senso stesso del linguaggio essere ridotto a nulla. Si tratta di una questione molto più sottile, riguarda l'avvento di umano che ha introiettato l'equivalenza tra vivente e tecnica. Seguendo Ellul, la domanda da porsi per una critica radicale all'algoritmo e alla sua infrastruttura, il data center, è quindi: come desacralizzare la tecnica? E qui, boh, ci fermiamo, mettiamo un brano. così vi lascio. Allora, avevo lasciati con la domanda: come desacralizzare la tecnica, come desacralizzarla per svolgere una critica radicale all'algoritmo e alla sua infrastruttura che è il data center, cioè uscire da questa trappola del lasciarsi così trascinare da questo millenarismo, no? Tecnologico, lo definisce la Happy Hour, per fare un passaggio adesso all'intervista, discussione che mette in piedi in questo incontro con John Zerzan Marco Kamenisch. Allora, è il, appunto, dicevo, giugno 2017, era ancora in libertà vigilata il compagno Marco Kamenisch, e per poco, poi appunto l'opuscolo è stato realizzato nel 2020 ed era, insomma, aveva finito di scontare completamente la sua pena, e quindi gli iniziano a chiedergli che cosa ha notato, insomma, dopo tutti questi decenni che era dietro le sbarre, cosa pensa della realtà di come appare in questi anni 10 o 10 e 20. E lui risponde che gli sembra che la dipendenza è sempre più in crescendo, ci sono continuamente nuove macchine, poi dice però al tempo stesso aumenta anche la consapevolezza del livello di dipendenza e di come le cose vadano sempre peggio, c'è sempre più stress, sempre più malattie, e penso che si possa arrivare a un punto di rottura interiore a livello psicologico, e questo momento arriva quando il livello di dipendenza cresce a tal punto che ad esempio il 30-40% delle persone della popolazione urbana non può più fare a meno degli psicofarmaci. Da dove arriverà questo punto di rottura, no? Gli chiede Zerzan. E lui fa così, parla del più del meno, di come vanno le cose, di come insomma la gente, magari anche sì, delle nostre parti, intendo nel occidente, come c'è questa truffa del bio, no? del mangiare sano, che anche lui compra, se può, comprava insomma le cose bio, però dice: tra di noi sta diminuendo il livello di analisi, di consapevolezza per poter sopravvivere in mezzo a tutto ciò, cercando di salvare se stessi, di avere la coscienza pulita, e quindi di poter sopravvivere tramite espedienti, comprando bio eccetera. Bene, anch'io, avendo il lusso di poter scegliere cosa comprare, preferisco cibi senza prodotti tossici e coltivati in modo rispettoso anche delle piante stesse. Vabbè, ma credo che non si dovrebbe dare tanta importanza a queste false priorità. Chiaro, anche nei popoli primitivi credo sia una contraddizione, ma una contraddizione elaborata nel senso di frutto di una meditazione o vissuto comune. Cioè era questo discorso tra individuo e comunità, no? Diceva anche prima che le persone appunto arrivano a prendere sempre di più i psicofarmaci, no? Nelle situazioni urbane. Anche nei popoli primitivi, dicevo, credo sia una contraddizione, ma una contraddizione elaborata nel senso di frutto di meditazione o vissuto comune. Nel nostro caso è blindata, vissuta nell'isolamento della singola persona, nei limiti delle sue abilità, necessità, del lavoro che fa e così via, il tutto a scapito del senso di comunità, dell'attenzione rivolta alla risoluzione dei problemi collettivi, perché solo se si vive insieme esistono problemi collettivi da risolvere. E questa capacità di norma viene messa da parte o perduta, è una questione di comunicazione. La comunità è un fatto di comunicazione, e la vera, autentica comunicazione avviene direttamente, faccia a faccia, e è possibile solo in una comunità. E ciò avviene per risolvere sia questioni collettive, sia questioni individuali che influiscono sulla collettività. Quindi commento. La comunicazione non esiste in astratto, no? È demenziale parlare di comunicazione in astratto, così come però lo è, cioè è una cosa reale, è demenziale anche immaginare delle macchine di intelligenza artificiale che dialogano con la realtà, col mondo fisico, no? Come dicevo prima, il tipo della DARPA, della DARPA, agenzia, scusate. E quindi la comunicazione è automaticamente, scusate il gioco di parole, non esiste astratta, cioè è sempre intrecciata con una comunità, qualsiasi sia la comunità, ma un'unione di individui che hanno un destino, motivi. E poi arriviamo un po' più avanti. Sempre discutendo di quale sarà il suo di Marco Kamenisch, il suo proseguimento di vita dopo appunto aver finito di aver estinto la pena. Mi dice poi cambiando discorso, Dipende, perché le cose possono cambiare molto in fretta, dall'oggi al domani, perché gli chiedono se andrà in giro per l'Europa o no. Possono cambiare molto in fretta. Basta telefoni, basta elettricità, basta acqua, siamo totalmente dipendenti perché non comandiamo noi queste cose. Loro possono chiudere il rubinetto, no? Quindi è meglio non dimenticare che è possibile vivere molto bene anche senza tutte queste cose, perché ci sono delle capacità che forse si stanno perdendo, ma sono ancora qui. Possiamo guarire. Siamo malati, ma possiamo recuperare queste capacità. Se vogliamo, o se siamo costretti a farlo, se non avessimo a disposizione quest'acqua del rubinetto, bene, c'è una sorgente, possiamo andare a prendere l'acqua, farci una doccia, ma quest'acqua del rubinetto significa dipendenza, zac, possono toglierla quando vogliono. E questi sono discorsi che spesso fanno arrabbiare le persone, perché non hanno argomenti da contrapporre. E poi gli dice: anche tu, John Zerzan, avrei vissuto queste discussioni, no? Con la gente che perde la pazienza quando gli dici che vive nella sua comfort zone, no? Per usare termini più così, che vanno più di moda. E, sì, però lui, Zerzan, dice: ma comunque hai fatto, gli hai dato un contributo a questa persona, anche se ha perso le staffe, che comunque deve pensarci, si rimette in moto la sua consapevolezza. E, no, scusate, era Kamenich che parlava. Gli hai fatto fare un passo in avanti, dice Zerzan. E infatti credo che tu, John, abbia molte esperienze in giro per il mondo di che cosa possa essere la consapevolezza delle persone a riguardo, al di là dei diversi modi di espressione culturale, di linguaggio. Molte volte mi hai scritto che questo pensiero, questa analisi, questo andare alla radice, va avanti, è una buona cosa, un'altra buona ragione per resistere, per dire che me ne frega. Siamo sulla strada giusta. E io, beh, è una tendenza personale. Sono d'accordo più con te nel non essere così pessimista su come le cose stanno andando. Ma c'è una piccola cosa che ha detto una donna che tu hai scritto in un tuo testo, se non ricordo male. Stavi parlando con una tua vicina, del sistema, dei vari problemi che ci sono. E questa donna ha detto molto giustamente: guarda che abbiamo tutto il cuore spezzato. E questo mi fa venire in mente che dobbiamo essere in grado di parlare una lingua diversa. Le persone parlano in modo diverso, hanno una diversa formazione, un modo diverso di esprimere le cose. Noi abbiamo l'analisi hardcore, che va alle radici, e in un modo altrettanto giusto questa donna diceva che abbiamo tutto il cuore spezzato. Io adopero spesso queste parole: dobbiamo guarire, è un processo di guarigione, dobbiamo andare avanti, e dato che la civiltà è stata una malattia molto lunga, dobbiamo saper ricominciare sempre da zero, perché ogni volta è un nuovo inizio. E va bene, poi continua a parlare di altre situazioni di lotte che erano così venute fuori in quegli anni, pochi anni fa, e direi che così si conclude questa intervista, che si intitolava Andare alla radice, non l'ho detto, no? La trovate sul blog di Strix. E sì, questa qua secondo me appunto può essere un modo di desacralizzare la mitologia, la fascinazione anche che può catturarci, insomma, dovuta alle tecnologie, no? L'impressione di non poter fare, perché poi c'è anche la... È vero che c'è il è vero che c'è una, diciamo, a freddo si mette a fuoco, che non sappiamo far niente, cioè non siamo capaci di far niente, sempre di meno, siamo molto dipendenti dalle cose, abbiamo un'esperienza concreta sempre più povera di diciamo anche di emozione, cioè di, a livello emotivo un po' povera, ecco, fatta di solitudine eccetera, però questo qua è un livello di riflessione. Ma se facciamo un passo indietro, si diceva, dicevamo anche nella frase di lancio, cioè al di là dell'apparente comodità, no, di questa tecnologia, ma al di là della comodità io dico anche che molti insomma sono stati catturati da questa tecnologia per sempre, apparentemente, anche perché dà un senso liberatorio, no? Dà un senso liberatorio fittizio quanto si vuole, ma dà quel momento di intensità, diciamo, una componente emotiva che dice, che crea dipendenza, anche per questo che, perché sembra di liberarsi da, cioè c'è una illusoria momento di liberazione dalla fatica, dalla ripetitività, ma è anche tutto la cornice, no, di colori, la cornice fatta di colori, l'istantaneità della cosa, anche per esempio del macchinario dei social, come costruito, no? Tutto questo, adesso senza allontanarci troppo, dà un senso di onnipotenza a livello emotivo, difficilmente controllabile, no? E quindi dà un senso di, per quanto si possa dire, che non lo è, ma è di benessere illusorio, quanto si vuole, ma è un momento dove si sente di star bene, essendo attaccati a quell'affare lì. E tutto questo appunto ha a che fare sicuramente con un raptus che ha a che fare col sacro, ecco, e questa cosa qua va colpita, va messa a fuoco, va proprio smantellata, perché in realtà la realtà è diversa, no? La realtà è diversa, il malessere cresce e si sopporta, come diceva Marco qui, e finché scoppia la pentola, scoppia, no? Finché si arriva al punto di rottura, la soluzione è già pronta, psicofarmaci comunque, no? Bisogna uscire prima da questa trappola, ecco. Io direi che lasciamo la musica. Israele è una cellula terroristica ad alta tecnologia mascherata da democrazia liberale, una logica di militarizzazione radicata nel tessuto del paese, e l'esercito tocca ogni strato della società, compresi scienza e ricerca. Non potrebbe essere altrimenti. Israele stesso è il prodotto di espropriazioni e pulizie etniche perpetrate con la forza. L'evoluzione dello Stato è proceduta logicamente da questa base materiale. In quasi alla fine della trasmissione, anch'io vi saluto. Allora, questa qui era una, diciamo, concettualizzazione che si trova in un, ne parleremo insomma in un altro momento, comunque in un articolo che appunto parla di questa pervasività di tecnologia bellica e non bellica all'interno della società israeliana, e di come questo modello, insomma, altamente militarizzato e altamente sofisticato dal punto di vista tecnologico, venga alimentato da, ad esempio, dall'Europa attraverso progetti, finanziamenti come Horizon, queste cose qua. Perché appunto l'Europa, in generale, non solo l'Europa, anche gli Stati Uniti, ma parliamo dell'Europa, ha questo legame così forte con lo Stato di Israele, anche gli riconosce questo ruolo di laboratorio, appunto laboratorio di un tecnomondo che si sta costruendo e che speriamo non verrà, cioè speriamo che venga, al quale ci si opponga insomma sempre di più. Ma collegandomi agli approfondimenti di questa sera rispetto all'acqua, ad esempio a Kamenish, appunto, se vogliono, cioè noi abbiamo l'acquedotto, però se vogliono ti chiudono l'acqua, come se vogliono ti chiudono i supermercati e sei cagato, non puoi fare niente, e cioè se tu non hai più nessun tipo di legame, nessun tipo di intuizione rispetto a quello che può essere una forma di sopravvivenza, diciamo, se sei proprio completamente appiattita nelle modalità di vita, insomma negli stili di vita che ti vengono proposti e imposti quotidianamente parliamo di ambito urbano, insomma, e occidentale, e perdi il contatto appunto con le cose primarie, come può essere il procacciarsi il cibo o prodursi il cibo e altre cose. E appunto rispetto all'acqua mi è venuto in mente che questa testimonianza, insomma, di un compagno della Cisgiordania che ho ascoltato ieri sera a un incontro, che diceva appunto: in Cisgiordania si sa, no, che Israele continuamente prosciuga le risorse idriche del popolo palestinese per appunto far andare avanti i propri data center, le proprie insediamenti agricoli ultra tecnologici, e adesso non ricordo specificamente la località luogo specifico della Cisgiordania da cui parlava questo compagno. Comunque è un luogo assediato appunto dagli insediamenti israeliani, dove appunto questi insediamenti continuano ogni giorno, portano via l'acqua, chiudono l'acqua ai nativi palestinesi in modo da cacciarli via, e loro ogni notte, ogni 2-3 notti rimettono le tubature dell'acqua, quindi utilizzano il mezzo che è la tubatura per il fine che è riprendersi l'acqua, e quindi fare in modo, insomma, di non lasciare la propria terra, no? Quindi sì, è una roba che magari può sembrare una cosa quasi meccanica, no? Tu mi togli l'acqua, io me la rimetto, ma invece secondo me nel contesto appunto di genocidio incrementale e di tentativo di annientamento completo, insomma, di un popolo da parte di uno Stato, qual è lo Stato di Israele, è una cosa che dà la dimensione della forza, ma anche di questa resistenza quotidiana, cioè quotidiana, veramente quotidiana, per sopravvivere. E magari accenno solamente, poi ci saranno, insomma, magari approfondiremo sempre sulla questione, prima di arrivare appunto al rilancio dell'appuntamento di sabato 13 settembre, il corteo contro la Leonardo e in generale contro le industrie di morte e il sistema scientifico industriale bellico del nostro paese. E ci sono delle forme di resistenza, di consapevolezza, che poi viene messa in pratica anche appunto in situazioni totalitarie come quella israeliana, e mi riferisco a una testimonianza di un Tony Caron, si chiama, che è un ebreo di origine lituana ma diciamo statunitense, che racconta in un articolo che è stato pubblicato su Invicta Palestina, che si intitola Antisemitismo, sionismo e americanizzazione dell'olocausto. Lui parla di come lui dice: ho scoperto nel 1981 di essere un antisemita, tra virgolette, cioè perché è stato accusato di essere un antisemita, in quanto ha cominciato a sconfessato il sionismo. Lui faceva parte di un gruppo giovanile sionista, ma appunto ha avuto una nel corso degli anni, insomma, ha maturato questa consapevolezza di essere, cioè di essere invece antisionista, e di questo profondo rifiuto dello Stato di Israele, di ciò che rappresenta. E è interessante questa sua testimonianza. Lui dice che non è diventato, cioè non ha avuto questo gesto di rifiuto durante il suo mitzvah sarebbe una specie di rito di iniziazione, si chiama mitzvah per i maschi, mitzvah invece per le femmine. Per le femmine avviene intorno ai 13 anni, per i maschi intorno ai 15, è una sorta di rito di iniziazione, nel senso di entrata del soggetto nella società, quindi anche di assunzione di presa di coscienza e di assunzione di responsabilità rispetto alla propria comunità, no? Quindi un rito di passaggio, diciamo, importante. E lui dice che non ha avuto questo scatto, appunto, di presa di distanza dal sionismo nel suo mitzvah, ma circa 10 anni dopo, insomma, assistendo al mitzvah di altri giovani. E dice anche che lui, appunto, è vissuto in Sudafrica, e appunto dice che, insomma, per un comunque ebreo americano che ha vissuto in Sudafrica, è stato più il fatto di smontare, diciamo, questa mitizzazione dell'olocausto, cioè questa mitizzazione dell'olocausto, questa sacralizzazione dell'olocausto, che serve a permettere allo Stato di Israele di compiere qualsiasi abominio, per lui e per quelli che, come lui, insomma, che hanno vissuto in Sudafrica, è stato questa possibilità, questo spirito critico è stato esercitato in maniera più intensa, diciamo, più vissuta, perché appunto hanno visto che le vittime, insomma, di nazismo in Sudafrica non erano gli ebrei, che anzi erano bianchi, eccetera, statunitensi, che anzi, diciamo, beneficiavano della ricchezza, dei privilegi, del capitalismo, eccetera, eccetera. Potevano fare i loro riti, mentre le donne nere erano costrette a servire i pasti durante i loro riti, ma hanno visto che appunto le vittime del nazismo erano i neri in quello stato lì, d'apartheid, e hanno anche visto che gli ebrei, diciamo, immigrati in Sudafrica familiarizzavano con il sistema nazista, appunto, del Sudafrica, quindi c'era questa contraddizione di delle vittime per eccellenza dell'olocausto che fanno comunella, usando così una roba ridicola, con i nazisti oppressori. Bon, questo per dire che magari, appunto, ci torneremo, perché ci sono tante cose sì, interessanti anche sulla costruzione della memorialistica per mandare avanti, appunto, per persuadere l'opinione pubblica e mandare avanti progetti sì, statali, insomma, come tutti i progetti statali, ma restando su Israele, con questa portata, diciamo, di mortifera. E sì, era per dire che c'è anche questo un modo di rifiutare di disertare il proprio stato, la propria comunità di appartenenza, e distinguere ad esempio la cultura ebraica dal sionismo, cioè fare vivere la propria dimensione, insomma, perché questa persona non è che non è più ebreo, per dire, non ha rifiutato certe cose della sua cultura, ma ha rifiutato completamente questa dimensione politica statuale, e rifiuta proprio lo Stato di Israele, cioè l'esistenza dello Stato di Israele. E ecco, allora, siamo agli sgoccioli, però abbiamo il compito, il dovere di ricordare che manca solo un giorno al corteo al corteo di Ronchi dei Legionari, 13 settembre. Il ritrovo è alle ore 11 in piazza Unità, che è la piazza del municipio di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, e si farà il corteo, e si arriverà alle soglie dello stabilimento e poi si riraggiungerà piazza Unità. L'assemblea, diciamo, il corteo è messo in piedi dall'assemblea Non Leonardo, una realtà fatta di vari collettivi, individualità della zona nostra qua, e partecipate, e ci vediamo sabato a Ronchi. Bene, sfumiamo, anche perché siamo ormai agli sgoccioli con questa trasmissione che è Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine anche oggi, giovedì 11 settembre 2025. Ricordo i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica. Scrivete a liberetutti@autistiche.org, oppure in forma cartacea scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Vi ricordo che tutta questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, potete riascoltarle nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ricordo che la trasmissione va in onda grazie all'intervento dell'Assemblea contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolta sulla web radio domani, venerdì, dalle ore 17, Radiazione. E adesso, se riusciamo, ascoltiamo ancora un brano per questa band inglese, band che è esistita a metà anni 80, ha fatto uscire due cassette, due demo tape, una è stata adesso ristampata qualche anno fa su vinile, che era uscita nel 1986. Loro sono i Pro Patria Mori. La cassetta era Where Shadow Lie. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.